Allora io direi però basta con le differenze, abbiamo una voce che mette tutti A tacere. d'accordo, una voce color arancione scuro che sa di spezie amara e rara. La frase, Alessandra mi guardi, non è mia perché è di Paolo Era troppo Conte, poetica per infatti, essere ed tu. ecco la voce che gli ha ispirato questa frase che tu dici poetica, infatti sa di poesia. Me ne accorgo così. Un sospiro a colazione. Non mi piace sia tu il centro di Malika Ayane insieme a noi oggi. Ciao Ma Malika. buongiorno, buongiorno. Senti Malika, al di là dei luoghi comuni e delle battute, il testo della tua canzone descrive una situazione che ci mette tutti d'accordo, perché l'abbiamo provata, noi donne, gli uomini, quando senti questo forte desiderio di cambiare, però ti accorgi che non hai gli strumenti per assecondare questo desiderio, questa voglia, questa necessità. Sono momenti un po' scomodi, in cui ci si sente strani, ma si capisce che qualcosa sta per cambiare. Quindi, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, sono momenti positivi di crescita. Assolutamente, diciamo che io li trovo in qualche modo molto, molto rigeneranti, se vogliamo, perché comunque non possono che portare ad un atteggiamento combattivo, no? In un certo senso, e molto positivo, perché il bisogno di cambiamento vuol dire già un procedere verso il cambiamento, cioè già poter percepire la necessità. Non può che portare alla ricerca degli strumenti per metterlo in atto, no? Se no ci si abbandonerebbe direttamente all'autocommiserazione, io credo. Dopo Paolo Conte, tutti hanno provato un po' a descrivere e a raccontare a parole la tua voce, il tuo stile. Io vorrei oggi che tu facessi un esercizio diverso, che ti raccontassi un po' da donna alle nostre amiche all'ascolto, perché in questo momento tu sei giovane, sei bella, sei famosa, elegante, originale, determinata, sul punto di ricominciare, ma Malika, dove stai andando? Ma in questo momento vago nel disordine totale che accumulo giorno per giorno, vista la mia scarsa capacità di organizzazione. Però cerco di andare, in realtà no, non so neanche dove con precisione, però sto cercando di seguire un percorso che si sviluppa, quasi quotidianamente da quello che ho fatto un attimo prima, no? È come In se improvvisassi un po', trasformazione, eh? sì. Senti, le donne dolcemente complicate, come canta la Fiorella Mannoia, in cerca di guai, zucchero, con le gonne, come insegna Vecchioni, come sono per te le donne? Ma le donne, io credo che siano un po' di tutto questo e me ne accorgo proprio quando un po' penso, quando mi guardo dentro, mi accorgo che cioè noi abbiamo una caratteristica che io trovo fantastica, che è quella di poter coprire più funzioni contemporaneamente, se vogliamo, no? Quindi possiamo essere madri e super manager, cioè non esiste più quella scissione tra diversi ruoli. Cioè, quindi credo che la bella conquista femminile sia quella di accettare serenamente di poter essere tantissime cose e non precludersi nulla, ecco. Insomma, un groviglio, come Un Grovigli, enorme eh? groviglio. Grovigli è il titolo del tuo CD e direi che è un titolo azzeccatissimo perché il CD è proprio un miscuglio di generi, atmosfere in cui ci si ama perdere, però tante volte le donne sono davvero dei grovigli, soprattutto per le persone che vivono loro accanto. Insomma, dov'è questo filo rosso che, no, tirato, libera, Sgroviglia. sgroviglia la matassa? Sei un po'. Quindi viva i grovigli, Malika! Assolutamente, assolutamente, anche perché ho notato che comunque anche gli uomini stanno sviluppando una sensibilità tale per riuscire a sostenere appunto questo aggrovigliamento generale, riuscire In insomma, a fondo, guarda. sviluppare una reazione efficace e appropriata ad ogni stato d'animo.